Questo è un podcast di Rivista Militare. Guerra di droni, l'incredibile ascesa tecnologica dei microdroni nel conflitto in Ucraina, di Andrea Romoli. Lanciamo i nostri piccoli droni a ondate contro i russi fino a quando abbiamo trasformato tutto quello che abbiamo davanti a noi in una killing zone, dove niente e nessuno può più muoversi o sopravvivere. Incontrato al Black Sea Security Forum di Odessa nell'agosto 2024, un tenente delle unità d'assalto ucraine ci ha spiegato così l'impatto che hanno avuto sul campo di battaglia i microdroni FPV artigianali, cioè pilotati in prima persona sfruttando visori oculari. Progettati e assemblati nelle piccole drone factory ucraine, partendo da componentistica commerciale a basso costo, integrata con parti realizzate a mano o attraverso stampanti 3D, questi piccoli ma letali velivoli sono figli delle difficoltà crescenti che l'esercito di Kiev sta incontrando nel sostenere una logorante guerra d'attrito con i russi. Visto che gli armamenti a lungo raggio forniti dall'Occidente si sono dimostrati, citando le parole di un funzionario americano recentemente intervistato dalla Reuters, troppo costosi e limitanti nella fornitura per cambiare le dinamiche dei combattimenti, gli ucraini hanno saputo costruirsi in casa un'arma innovativa, capace di aiutarli a superare la loro cronica inferiorità di armamenti e munizioni rispetto ai russi. Dopo aver potuto contare nelle prime fasi del conflitto sul decisivo apporto di fuoco dei droni industriali Bayraktar di produzione turca, presto però diventati facile preda della contraerea russa, nell'agosto del 2022 alcuni volontari della 93esima Brigata di Fanteria Ucraina hanno impiegato, per la prima volta con successo, un drone commerciale FPV di produzione cinese, modificato artigianalmente per sganciare una granata a mano. In quella storica giornata si sono create le premesse per una rivoluzione dal basso che ha cambiato per sempre il volto della guerra in Ucraina. E non solo in Ucraina. In pochi mesi dal successo di quella singola azione di fuoco è nata un'armata aerea low cost capace di condizionare drasticamente l'impiego di tutte le altre unità combattenti, artiglieria, fanteria, tank e persino della componente sanitaria. Tutte limitate nella loro operatività dalla presenza ormai ubiqua sul campo di battaglia di migliaia di piccoli droni artigianali, che per il loro bassissimo costo possono essere impiegati con la tecnica di combattimento a sciame. Gli ucraini hanno affiancato a una serie di grandi e medi impianti industriali vocati alla produzione nazionale di droni strategici, capaci di colpire anche centinaia di chilometri di distanza, una rete di piccoli laboratori a filiera corta impegnati a progettare e produrre decine di migliaia di microdroni FPV al giorno direttamente a ridosso delle linee del fronte. Un modello di fabbrica diffusa che ha permesso al presidente Zelensky di annunciare la produzione di 1 milione di droni entro il 2024 e di altri 2 milioni nel 2025. Pur con le inevitabili rigidità del loro sistema di produzione industriale statalizzato, i russi hanno imparato rapidamente la lezione e hanno anche loro aggiunto un ben munito arsenale di UAV e munizioni circuitanti industriali, Layset, Orlan e Geran, decine di migliaia di piccoli droni d'assalto artigianali a basso costo, assemblati con gli stessi materiali, tecniche e lungo le stesse catene di approvvigionamento di quelli ucraini. Fin dall'inizio del 2023, ad una guerra tradizionale fatta di artiglieria, mezzi corazzati e aviazione convenzionale, se ne è dunque affiancata un'altra, parallela ma non meno feroce, combattuta da giovani volontari che dopo un addestramento sommario durato qualche settimana hanno iniziato a cacciare con i loro FPV ogni cosa si presenti sul campo di battaglia. Dal carro armato fino al singolo soldato di fanteria, tutto diventa bersaglio pagante, visto che per colpire non si usa un sistema d'arma da centinaia di migliaia di euro, ma un piccolo drone 7 inch dal costo di meno di $400. Ma il bersaglio primario di queste unità di cacciatori UAV sono proprio i loro colleghi dall'altra parte del fronte, che vengono individuati e colpiti grazie a due vulnerabilità intrinseche di questi apparati di volo. La necessità di pilotarli da una distanza massima di qualche chilometro, visto il loro limitato raggio d'azione, e l'invisibile, ma facilmente individuabile, segnale radio che lega ogni pilota al suo UAV. Un filo che può essere ripercorso per arrivare a colpire chi lo sta portando in volo. Limiti difficili da superare per questi efficaci ma artigianali sistemi d'arma, anche se i tentativi progettuali per allungare il raggio operativo dei droni non mancano e sono spesso coronati da brillanti successi. Sul fronte di Kharkiv, già dal mese di luglio 2024, sono stati portati in volo dei droni 7-inch capaci di volare per oltre 40 km con un carico di 100 grammi di esplosivo. Per realizzarli, le drone factory locali hanno riprogrammato e migliorato le loro CPU di gestione del volo, ottimizzando la durata della batteria. Sempre sul lato ucraino, già da mesi sono in linea piccoli droni ripetitori che hanno il compito di rilanciare il segnale di controllo, permettendogli di aumentare la distanza operativa dal loro pilota, confondendo allo stesso tempo gli strumenti di rilevamento a terra. Ma tutti questi sviluppi, per quanto interessanti, rappresentano solo una soluzione parziale del problema. Sono infatti due le grandi sfide progettuali da vincere per ottenere la supremazia nella guerra di droni che si sta combattendo nei cieli dell'Ucraina. La prima è quella di coordinare l'azione contemporanea di decine di velivoli per ottimizzare gli attacchi a stormo. E la seconda, quella di mettere in sicurezza i piloti, recidendo per sempre il collegamento digitale che li lega ai loro UAV. Per vincere entrambe queste sfide, la risposta è una sola: l'impiego dell'intelligenza artificiale. Fin dalla primavera del 2024, diverse start-up ucraine hanno cominciato a lavorare al progetto di droni madre capaci di volare lungo rotte prestabilite senza alcun pilotaggio remoto, individuare autonomamente gli obiettivi paganti nell'area e guidare poi sul bersaglio decine di droni d'attacco, anch'essi lanciati in volo senza pilota. Attacchi di questo tipo sarebbero in grado di saturare zone anche ampie del campo di battaglia, senza richiedere la presenza di un numero eccessivo di piloti sul campo. I russi si sono mossi nella stessa direzione e con sorprendente tempismo, tra giugno e luglio del 2024, entrambi gli eserciti hanno annunciato di aver testato con successo i primi prototipi operativi guidati dall'intelligenza artificiale. Alla fine dell'estate del 2024, i russi hanno confermato in maniera ufficiale la piena operatività di un drone madre in grado di trasportare sul bersaglio due UAV 7-inch che si staccano dal suo ventre per centrare il bersaglio in autonomia. Sempre lo Stato Maggiore di Mosca ha annunciato che sistemi di pilotaggio con intelligenza artificiale si stanno sperimentando anche su droni più grandi, come i Lacet o i Geran. Mentre ucraini e russi erano impegnati a sfidarsi in una corsa all'innovazione tecnologica senza esclusione di colpi, da Pechino è arrivato però un annuncio che potrebbe far pendere in maniera irreparabile l'ago della bilancia dalla parte russa. Da settembre del 2024 il governo cinese ha confermato l'entrata in vigore del cosiddetto annuncio numero 31, un regolamento statale che impone rigidissime restrizioni per l'esportazione di materiale e componentistica elettronica necessaria alla produzione di droni. Apparentemente questo è un modo per venire incontro alle proteste americane che avevano accusato i cinesi di alimentare il conflitto in Ucraina con il loro apparato industriale e militare. In pratica questo rappresenta un colpo devastante per la rete di oltre 250 microimprese che in Ucraina producono droni d'attacco rifornendosi principalmente sul mercato cinese. L'embargo in teoria riguarderebbe anche i russi, che però dispongono di un canale privilegiato con la Cina per progetti strategici, ma soprattutto hanno a disposizione un'ampia scelta di sistemi d'arma da impiegare sul campo di battaglia, anche nel caso in cui la produzione di microdroni d'attacco dovesse essere rallentata dalla carenza di componentistica elettronica. È evidente che un paese con molte più risorse demografiche e militari come la Russia sarà meno danneggiato dalle sanzioni sui droni, ha affermato Feder Sudiak, fondatore e responsabile di Mova Defense, un'associazione di volontari che si occupa di addestrare i combattenti delle unità di droni d'attacco. Dal canto suo, il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato di stare attivamente cercando nuovi canali di approvvigionamento per la componentistica elettronica per droni, guardando ai mercati indiano, sudcoreano e taiwanese. Ma la loro capacità produttiva è molto inferiore a quella cinese e i prezzi dei loro materiali sono significativamente più alti. Un dato che in una guerra di logoramento lunga e costosa come quella ucraina potrebbe rivelarsi a lungo andare determinante. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.